questo argomento è certamente tra quelli più attuali e discussi del nostro tempo. Anche tra i cristiani vi sono diverse opinioni, perciò lascio al giudizio altrui la mia valutazione. Faccio una doverosa premessa. La Bibbia afferma di se stessa che ogni sua parte è ispirata da Dio, comprese quelle che appaiono le più difficili o le più lontane dalla nostra realtà quotidiana. E questo è anche il caso del Pentateuco, specie nelle sue sezioni cerimoniali e legislative, che sembrano così ostiche. Ma più si studia la parola di Dio, più si comprende come la legge di Dio sia sorprendentemente attuale e contenga principi profondi e meravigliosi che la pongono su di un piano di superiorità, per esempio, rispetto ai più antichi codici penali. Essa, infatti, lungi dall'essere antiquata, fu la prima grande legislazione penale della storia, insieme col codice di Hammurabi, influenzando nel passato e ancora nel presente le legislazioni più progredite. Tutte le società che sono state toccate dalla testimonianza biblica hanno sempre tratto grandi benefici nel conformarsi ai principi scritturali, anche se molto spesso tutto questo è disconosciuto dagli studiosi di diritto. Gli ordinamenti giuridici dei paesi nei quali si è diffusa la testimonianza evangelica sono ancora oggi i più civili e avanzati del mondo, malgrado sussista una realtà dominata dal peccato e un costume prevalentemente antibiblico, non solo nei principi astratti di diritto, ma anche e soprattutto nella prassi sociale quotidiana. Il codice penale italiano presenta soprattutto due tipi di pene, quelle detentive, ergastolo, reclusione e arresto, e quelle pecuniarie, multa, ammenda. Si può affermare che tutto il sistema è basato sull'alternativa fra l'allontanamento dalla società con l'internamento in carcere da un lato e il pagamento di una somma a titolo risarcitorio dall'altro. Solo in via eccezionale è prevista la pena di morte, applicabile esclusivamente in tempo di guerra quando è in vigore il relativo codice militare. Il codice penale biblico è fondato a sua volta su tre pene principali: la morte, l'esclusione dalla società e la pena pecuniaria. Tutto sommato, quindi, non vi è nessuna differenza, salvo che, rapportando la legge di Dio ai sistemi penali di quel tempo e anche a molti degli attuali, essa brilla per chiarezza, fermezza, ma soprattutto umanità. La civile Roma imperiale usava le torture per suscitare le deposizioni dei testimoni e flagellava a sangue i detenuti, Atti 16 e 23. Beffava e crocifiggeva i condannati a morte, Matteo 27, 27 e 44. Obbligava i prigionieri a lottare fra loro o contro le belve. Ancora oggi i sistemi disumani sono usati in tutto il mondo contro i detenuti. Ogni anno i rapporti di Amnesty International denunciano crudeltà impensabili compiute in molti paesi dell'America centrale e meridionale, dell'Africa, dall'Asia e dell'Europa dell'Est. Chi di voi ha letto Torturato per Cristo? Di fronte a questo scenario raccapricciante, il sistema biblico, che fu redatto 3.500 anni fa, si eleva per livello morale e rispetto della persona umana. La pena di morte, quindi, come legge sociale, non è un'invenzione dell'uomo. Essa è nata da un ordine preciso di Dio. Dopo il diluvio, Dio disse a Noè: «Io chiederò certamente conto del sangue delle vostre vite. Ne chiederò conto ad ogni animale e all'uomo. Chiederò conto della vita dell'uomo alla mano di ogni fratello dell'uomo. Chiunque spargerà il sangue di un uomo, il suo sangue sarà sparso per mezzo di un uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine». Genesi 9, 5 a 6. Proprio perché egli è il datore e il protettore della vita, ha il diritto di decretare anche la morte di chi disubbidisce alla sua legge. Ma evidentemente il principio non è così chiaro a tutti, perché vanno moltiplicandosi le iniziative per abolire dai codici penali delle nazioni questa pratica. Da tempo è nata un'associazione contro la pena di morte di nome Nessuno Tocchi Caino. I giornali sensibilizzano la coscienza dei cittadini con articoli contro la pena di morte. Ecco alcuni commenti. A riguardo, la pena di morte offende la coscienza di ogni cittadino. Non è accettabile in una società come la nostra. La pena di morte resta un fatto aberrante. La pena di morte è l'estremo precorso alla violenza degli stati deboli. prima della fine del millennio la pena di morte sia bandita dai paesi civili e basati su valori cristiani. Risulta chiaro da queste considerazioni che per alcuni, sia cristiani che non cristiani, la pena di morte non si concilia, per i primi con il messaggio del Vangelo e quindi con i principi cristiani, per gli altri con la morale. Ora, poniamoci due domande. 1. Per quali reati Yahweh aveva stabilito la pena di morte? 2. Per quali ragioni Yahweh aveva stabilito la pena di morte? Per quali reati Yahweh aveva stabilito la pena di morte? I reati punibili con la pena di morte erano divisibili in due gruppi. Il primo comprendeva 5 gravi violazioni del patto con Dio: il sacrificio agli idoli, Esodo 22:20, la bestemmia contro l'Eterno, Levitico 24:10-16, la magia e la divinazione, Esodo 22:18, la profanazione del sabato, Esodo 31:14, la falsa profezia, Deuteronomio 18:20. Il secondo gruppo è costituito da 7 gravi delitti contro la famiglia, la persona e la moralità. Pubblica, gravi mancanze contro i genitori, Esodo 21, 15-17, vizi contro natura, bestialità e sodomia. Levitico 20, 13-16, adulterio con persone coniugate o fidanzate, Deuteronomio 22, 22-27, incesto con suocera e nuora, Levitico 20, 11-14, prostituzione, Deuteronomio 22, 20-21. A questo punto sorge un'inevitabile domanda: come mai Dio ha stabilito la pena di morte mentre, della sua legge, cioè i 10 comandamenti, ha ordinato di non uccidere? Il problema sorge perché è impropria la traduzione del 6° comandamento. Infatti, in ebraico, l'ordine è «non assassinerai». Già di per sé questa traduzione enuncia tante verità. Dio non ha vietato l'uccisione, altrimenti si sarebbe contraddetto. Ha vietato l'omicidio inteso come atto contenente in sé ragioni di vendetta, di rivendicazione, di odio, ossia perpetrato per tutti quei motivi che non rientrano nella sua volontà. Per esempio, se un ladro veniva colto di notte a compiere uno scasso, veniva percosso e moriva, non vi era delitto di omicidio. Ma se il sole era già alzato, vi era delitto d'omicidio. Esodo 22, 2 a 3. Inoltre, il vindice del sangue aveva tutti i diritti di uccidere l'omicida quando lo incontrava, se questo non si era rifugiato in una delle città di rifugio. Numeri 35, 19, 21. Perché queste distinzioni? Perché l'ingiunzione di Dio di non uccidere è stato dato per la conservazione della razza, mentre la tolleranza da parte di Dio di uccidere in certi casi è stata concessa per mantenere l'ordine fra gli uomini, e ha, in fondo, sempre lo stesso scopo, che è quello della conservazione della specie. Dovrebbe essere chiaro che il 6° comandamento di non uccidere non è un principio astratto e universale, per cui ogni forma di vita deve essere sempre e in ogni caso difesa. Il comandamento sottolinea piuttosto che tutte le questioni riguardanti la vita e la morte dell'uomo sono di competenza diretta di Dio. 1 Samuele 2, 6. Egli, attraverso gli uomini, può punire con la morte il peccato di altri uomini. Infatti la spada che i magistrati civili portano in qualità di autorità, stabilite da Dio, Romani 13, 4, fa capire che tale agire resta valido anche nel nuovo patto. Compreso ciò, tante cose trovano il loro posto. Per quali ragioni Yahweh aveva stabilito la pena di morte? Non possiamo ignorare le motivazioni che hanno indotto Dio a stabilire la pena di morte e, una volta esaminate, possiamo giudicare se tali principi sono venuti meno. Consideriamo il primo omicida, Caino. Dio stesso lo protesse perché non venisse ucciso per vendetta. Anzi, chi lo avesse ucciso sarebbe stato punito 7 volte di più. Dopo il diluvio, Dio ordinò all'uomo di uccidere, ma solo gli animali, Genesi 9, 3, mentre ciò non era stato permesso subito dopo la creazione, Genesi 1, 29, 30. Parlando a Noè, Dio avvertì che l'omicida e il suicida avrebbero dovuto rendere ragione del loro atto e che il sangue dell'uomo sarebbe stato sparso dall'uomo. Egli non diede in quell'occasione nessun comandamento in merito. Solo dopo la promulgazione della legge Dio specifica i casi in cui, secondo la legge civile, si sarebbe dovuta applicare la pena di morte, preoccupandosi anche di spiegare i motivi, come se dovesse renderne conto. 1. Per togliere il colpevole. La legge affermava: quando si troverà un uomo coricato con una donna sposata, tutti e due moriranno, l'uomo che si è coricato con la donna e la donna. Così toglierai via il male di mezzo a Israele. Deuteronomio 22:22. Allora si farà uscire quella giovane all'ingresso della casa di suo padre, e la gente della sua città la lapiderà a morte, perché ha commesso un atto infame in Israele, prostituendosi in casa di suo padre. Così toglierai via il male di mezzo a te. Deuteronomio 22:21. Quando si troverà un uomo che ha rapito qualcuno dei suoi fratelli tra i figli di Israele, ne abbia fatto un suo schiavo e lo abbia venduto, quel ladro sarà messo a morte, così toglierai via il male di mezzo a te. Deuteronomio 24:7. L'intenzione di Dio nello stabilire la pena capitale era proprio l'eliminazione del colpevole. Evidentemente egli non contemplava l'idea di una pena da scontare, perché il male era talmente grave che non poteva essere espiato. Lo dimostra il fatto che, per certe colpe, egli stabiliva un'ammenda e non già un'espiazione. Esodo 22:1. Tuttora ho vivo nella mente le parole di un uomo condannato alla pena di morte perché aveva seviziato e ucciso alcuni bambini. Egli disse davanti al tribunale: voi dovete uccidermi, perché se mi lasciate in vita, appena ne avrò la possibilità, lo farò ancora. Non è un atto disumano togliere il colpevole, soprattutto il reo. Confesso quando si tratta di colpe gravi, ma un servizio a favore della società. 2. Per incutere timore. Infatti leggiamo: l'uomo che avrà la presunzione di non dare ascolto al sacerdote che sta là per servire l'Eterno, il tuo Dio, o al giudice, quell'uomo morirà. Così toglierai via il male da Israele, e tutto il popolo udrà la cosa, temerà e non agirà più con presunzione. Deuteronomio 17:12-13. Quando un falso testimone si alzerà contro qualcuno per accusarlo di un delitto, i giudici faranno una diligente inchiesta. Se quel testimone risulta un testimone bugiardo, che ha deposto il falso contro il suo prossimo, farete a lui quello che egli aveva intenzione di fare al suo prossimo. Così toglierai via il male di mezzo a te. Gli altri lo udranno, temeranno, e non si commetterà più in mezzo a te una simile malvagità. Deuteronomio 19:16-21. I genitori che avevano un figlio ribelle dovevano accusarlo davanti agli anziani, e allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno a morte. Così toglierai via di mezzo a te il male, e tutto Israele lo saprà e temerà. Deuteronomio 21:21. Il falso profeta andava lapidato, e tutto Israele lo udrà e temerà, e non commetterà più una simile azione malvagia in mezzo a te. Deuteronomio 13:11. Secondo il Signore, la pena di morte era necessaria, oltre che per eliminare il colpevole, anche per incutere timore a coloro che avrebbero voluto eseguire il male. Prova ne è che dopo l'esecuzione della pena capitale poteva essere talvolta eseguita l'impiccagione del giustiziato, con una finalità chiaramente intimidatoria per la collettività. Non credo a quanti sostengono che per chi vuole compiere il male è inutile la pena di morte, anche perché tutti, chi più chi meno, siamo frenati dal compiere azioni ingiuste, non tanto perché ci è sgradevole, ma perché vi sono delle conseguenze negative. Romani 13:5. Se poi uno compie il male sfrontatamente nonostante tutti gli avvertimenti, a maggior ragione è necessario usare la pena capitale. 3. Per distinguersi dagli altri popoli. Mosè dichiarò che anche la pena di morte era dettata da Yahweh e andava osservata come atto di sapienza e intelligenza. Ecco, io vi ho insegnato leggi e prescrizioni come l'Eterno, il mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese nel quale vi accingete a entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli. Qua, come nazione, Israele ha perso la sua identità nel momento in cui ha voluto imitare gli altri popoli. Ciò è valevole anche per i cristiani. quando perdono i principi di Dio adeguandosi a quelli di tutti i popoli. 4. Per essere felice. Sta scritto: ma se un uomo odia il suo prossimo, gli tende insidie, lo assale, lo percuote in modo da causare la sua morte, e poi si rifugia in una di quelle città, gli anziani della sua città lo manderanno a prendere di là, e lo daranno nelle mani del vendicatore del sangue affinché sia messo a morte. Il tuo occhio non ne avrà pietà. Toglierai via da Israele chi ha sparso sangue innocente e così sarai felice. Deuteronomio 19, 11-13. Eliminare il colpevole, per il popolo di Dio, doveva essere un motivo di gioia, non perché toglieva una vita, ma perché aveva eseguito la volontà di Yahweh. Un altro motivo di gioia era che l'assassino non poteva influenzare altri. Dopo quanto è stato considerato, è difficile pensare che le ragioni che hanno indotto Dio a decretare la pena di morte non siano più valide. La pena di morte, nella mente di Dio, aveva lo scopo di togliere il colpevole, incutere timore, distinguersi dagli altri popoli. Infine, era un atto di sapienza. E andava applicata per essere felice di aver ubbidito. Ciò che impedisce un efficace sviluppo del cristianesimo sono i credenti che vogliono conformarsi al pensiero degli altri popoli, come del resto fece Israele. Ezechiele 11 e 12. Il popolo che ha il timore di Dio deve avere il coraggio di mettere in pratica i suoi principi, soprattutto quando questi contrastano con la mentalità secolare. A mio avviso, la pena di morte rientra in uno dei principi di Dio ancora validi. Mi rendo conto che questi principi non possono essere ritenuti validi in un governo che non ha timore di Dio, quindi affrontare l'argomento della pena di morte con chi non riconosce l'autorità della sua parola significa non intendersi. Le seguenti riflessioni non sono quindi rivolte agli increduli, ma ai cristiani, perché possano rendersi conto che la pena capitale è stata istituita da Dio, affinché la retribuzione prendesse il posto della vendetta con lo scopo di rendere possibile una società stabile. Un articolista concludeva così la sua esposizione sulla pena di morte: personalmente ritengo ingiusto offrire a dei criminali una fine virile come la fucilazione. È assai più spaventosa la prospettiva di un interminabile ergastolo. Ma questo è sadismo, non giustizia. Ed è ciò che Dio vuole evitare con la pena di morte. Infatti, all'inizio del mese di giugno del 2007, è uscita sui quotidiani italiani la notizia in merito a 300 persone condannate all'ergastolo, su 1.300 presenti nelle prigioni italiane, che hanno scritto al Presidente della Repubblica chiedendo di commutare la condanna all'ergastolo in pena di morte. La motivazione che ha spinto i 310 ergastolani a scrivere questa lettera, che un sottosegretario ha definita tragicamente paradossale ma comprensibile, è che tale esistenza è ritenuta come un morire giorno per giorno, al quale è preferibile morire in un solo giorno, in una sola volta. A volte le persone più ingiuste hanno più senso dei giusti. Inoltre, occorre anche dirlo, la pena capitale non è il peggiore dei mali, perché si legge nella parola di Dio che in quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. Apocalisse 9, 6. La mia grande preoccupazione per questo argomento è che se la pena di morte non è applicata per ragioni giuste, prima o poi la società la applicherà per motivi contrari alla volontà di Dio. Infatti, sulla testa degli italiani pende una doppia pena di morte, una politica e una religiosa. Quella politica è prevista in tempo di guerra dal codice penale militare. Quella religiosa arriva dal cattolicesimo. Nel documento ufficiale, testo di fede, catechismo della Chiesa Cattolica, viene dichiarato lecita la pena di morte. In esso leggiamo: l'insegnamento tradizionale della Chiesa ha riconosciuto fondato il diritto e il dovere della legittima autorità pubblica di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto, senza escludere, in casi di estrema gravità, la pena di morte. Paragrafo 2266, pag. 557. Anno 1992. È dunque possibile che un giorno, per motivi religiosi definiti casi di estrema gravità, che non sono poi tanto difficili da indovinare, il cattolicesimo, in armonia con lo Stato, applichi la pena di morte. Vi sono inoltre altre due pene di morte che pendono sulla testa degli uomini: la voce del popolo e i criminali. Negli anni caldi del terrorismo, sondaggi attendibili hanno dichiarato che oltre il 60% degli italiani volevano la pena capitale. Nel triste periodo del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, Ugo La Malfa disse: «Siamo in stato di guerra e si deve rispondere con misure eccezionali, anche con la pena di morte. Dunque basta una scintilla al momento opportuno per provocare la pena di morte in uno Stato. La storia passata e recente ce lo insegna. Se uno Stato non mette la pena di morte per il reo confesso di crimini che Dio ha stabilito punibili, sulle persone giuste incombe, come una spada di Damocle, una continua pena di morte perché sono esposte a essere vittime dei malfattori. In una società come la nostra, che si vanta del progresso in ogni settore, le persone di sera sono costrette a rimanere in casa o uscire in gruppo per timore di essere uccise. O, se tutto va bene, essere scippate o violentate. Le leggi di un popolo sono giuste quando rendono il cittadino libero di vivere serenamente col prossimo. In una società la pena di morte ci è sempre. Dipende quale scelta vogliamo operare, quella che i criminali hanno stabilito per gli innocenti o quella che Dio stabilisce per i criminali. Io preferisco la seconda. Gesù e la prostituta. E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccare più». Il racconto descritto nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 8, dove Gesù salva una donna adultera dalla lapidazione, dimostra che egli aveva abolito la pena di morte. La pena capitale è incompatibile con il messaggio del Vangelo. Esaminiamo i fatti. Alcuni scribi e farisei portarono a Gesù una donna colta in adulterio, chiedendogli come dovevano comportarsi. Con malizia gli ricordarono che la legge, per tali persone, chiedeva la pena di morte. Stava scritto: se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Levitico 20 e 10. Se Gesù avesse suggerito che bisognava perdonarla, sarebbe andato contro la legge. Se avesse sentenziato che occorreva lapidarla, avrebbe, secondo loro, mancato di amore. Il tranello era preparato. Ma Gesù rispose: «Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei». Cosa intendeva affermare il Salvatore? Il senso era questo: dal momento che voi me l'avete portata per tentarmi, a proposito c'era l'adultera, ma dov'era l'adultero, perché sapete già com'è comportarsi in tali casi. Io vi dico che se voi condannate una persona alla pena di morte perché pensate di non aver peccato o perché ritenete di essere migliori di lei, agite pure. Se invece osservate la legge di Dio per ubbidienza e non per soddisfare i vostri scopi malvagi, procedete. Le sanzioni che Dio ha ordinato si applicano solo per ubbidienza, anche se questo a volte può costare molto, e non perché si è convinti d'essere migliori di altri. Infatti gli accusatori se ne andarono senza condannare la donna, perché si erano visti colpevoli quanto lei. Gesù non la condannò perché era venuto per salvare e non per condannare. Con il suo comportamento Gesù non aveva abolito la pena di morte, ma volle dare una lezione a coloro che avevano un certo potere sulla vita degli altri, insegnando loro a usare l'autorità conferitagli da Dio con imparzialità e con cuor puro. Infine, mi è ancora più difficile accettare che Gesù abbia abolito la pena di morte, quando, nel constatare certi scandali, disse ai suoi discepoli: «È impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli». Neppure Gesù ha insegnato che la vita vada comunque e sempre salvata. Per certe colpe egli vedeva utile la pena capitale. Non esistono multe né prigioni che possono paragonarsi a violenze fatte su bambini come stupri o rapimenti. L'eliminazione del colpevole è la sola risposta a certi crimini. Devo confessare che non biasimo del tutto le motivazioni di coloro che vogliono abolire la pena di morte, ma temo che esse siano dettate più da sentimenti umani, onde emotive, piuttosto che da motivazioni divine. Se si vuole evitare la pena capitale per dare la possibilità al condannato di convertirsi, Questa problematica esisteva anche al tempo in cui Dio l'aveva istituita, eppure egli stesso ordinò: il tuo occhio non ne avrà pietà. Il comandamento di Dio non era tanto quello di incoraggiare a essere spietati nell'esecuzione, ma di non lasciarsi commuovere dal colpevole. Altri sostengono che il nostro sistema legale non è perfetto, che a volte le sentenze sono arbitrarie e ingiuste, per cui potrebbe morire un innocente. Nel dare le sue leggi Dio non era ingenuo. Egli sapeva che alcuni innocenti sarebbero stati accusati ingiustamente, come Nabod, e soprattutto Gesù Cristo. Ma le leggi dovevano comunque essere emanate. Alcuni vedono la pena di morte come un fatto immorale, ma la moralità non la stabilisce l'uomo, bensì Dio. Se poi qualcuno valuta una sentenza a vita meno costosa della pena di morte, cadiamo come tutti sul piano dell'interesse e non del desiderio di compiere il volere di Dio. La generazione d'oggi è simile a quella del tempo di Osea quando affermò: ora continuano a peccare, si fanno con il loro argento delle immagini fuse, idoli di loro invenzione, che sono tutti opera d'artefici. Di loro si dice: scannano uomini, baciano vitelli. Osea 13:2. Viviamo in un'epoca assurda, dove gli animali sono trattati come uomini e gli uomini come animali. I cani sono regolarmente portati a passeggio, mentre i bambini si scaricano all'asilo e i vecchi messi in un ricovero. Ancora una volta dico a me stesso che è più importante compiere la volontà di Dio che agire secondo la mia morale o i miei sentimenti. Gennaio 2000 Ellero.